Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. In realtà è un ordinario caso di maltrattamenti in famiglia di un genitore ai danni di un minore. Quello che cambia è la motivazione. In un altro tipo di famiglia ci può essere un trattamento analogo perché l'adolescente va male a scuola oppure perché non rispetta le indicazioni sull'orario di rientro a casa. In questo caso c'è una componente che sta a monte della punizione, che è relativa all'omologazione dei figli ai valori culturali dei genitori. Quello che cambia è il contesto sociale in cui ciò avviene, questo è legato al multiculturalismo che stiamo vivendo. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il commento di Eugenio Albamonte, neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, al microfono della nostra Raffaella Calandra, che ha commentato il fatto di oggi della ragazzina di Pavia, di famiglia musulmana, frustata dai genitori perché è troppo occidentalizzata, è stata allontanata quindi dal Tribunale dei Minori dalla propria famiglia. Avete sentito che cosa ne pensa Albamonte? E questo caso tra l'altro segue a un altro dei giorni scorsi di un'altra ragazzina che è stata allontanata dalla famiglia, di una famiglia originaria del Bangladesh, perché i genitori le avevano rasato completamente la testa e i capelli perché non voleva mettersi il velo. E dice Albamonte, questo è frutto un po' del multiculturalismo che stiamo vivendo. Poi ci occuperemo di molti fatti, anche stasera tantissime sono le notizie, ritorneremo sulla strage in Siria perché i morti ci sono una questione purtroppo oggettiva, ma si rimpallano le responsabilità, molti, quasi tutti puntano il dito contro Assad, ma sarà stato veramente il dittatore siriano Assad, aveva interesse a compiere questa strage? Ne parleremo, così come parleremo anche di Trump, che oltre a dire che queste violenze non saranno mai più tollerate e minaccia un intervento unilaterale in Siria, ha anche, diciamo, questioni sue di politica interna e anche domani tra l'altro incontrerà il presidente cinese e parlerà della Corea del Nord, fra le altre cose ogni tanto lancia i suoi missili e le sue provocazioni. E poi c'è il Salone del Mobile a Milano, c'è tutto un fermento, un grande movimento, la grande vetrina internazionale del mobile e del design, c'è anche la partita Napoli-Juventus e daremo ovviamente aggiornamenti, quindi preparatevi ad ascoltare fino alle 22 Effetto Notte, non lasciate neanche un minuto, c'è per voi la pagina Facebook del programma per i vostri messaggi e osservazioni oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666 349-238-6666. Intanto il riassunto della giornata. Siria, la strage con i gas, i morti al momento sono 74, tra i quali 25 minori. Mosca difende Damasco e rifiuta la risoluzione ONU. Trump avverte, le terribili azioni del regime di Assad non saranno più tollerate. E per la politica interna americana, lo stratega di Trump, Bannon, rimosso dal Consiglio per la sicurezza nazionale. Politica italiana, caos sulla legge elettorale, ultimatum di Renzi al Senato e scoppia il caso della nomina di Torrisi alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali. Corte dei Conti, in Italia il cuneo fiscale è 10 punti sopra la media europea. Trasporti, cancellato il 60% dei voli all'Italia e per l'avvertenza ATM, Milano a piedi stamattina nel pieno del Salone del Mobile. Ragazzina marocchina frustata dai familiari, il caso nell'Oltrepò Pavese, la minore allontanata dai genitori per maltrattamenti, non vogliono che sia occidentalizzata. L'omicidio dell'Atri, accusa di omicidio volontario per tutti gli indagati, tra loro il padre di Castagnacci e il butta fuori del locale fuori dal quale è stato pestato a sangue Emanuele Morganti. Cucina, è a New York il miglior ristorante 2017, spodestato Bottura, Oscar all'Eleven Madison Park Restaurant di Manhattan. Per il calcio, dopo il pareggio in campionato, nuova sfida stasera tra Napoli e Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Partiamo quindi dalla strage di ieri sera in Siria, di ieri ancora bombardamenti nella provincia di Idlib, nella zona della Siria nord-occidentale sotto il controllo dei ribelli, e di ora in ora si aggrava il bilancio dell'attacco aereo con gas chimici nel villaggio di Khan Sheikhoun. E mentre il conflitto continua a mietere vittime, alle Nazioni Unite va in scena l'ennesimo muro contro muro tra paesi occidentali e Russia, con Washington che di fronte alla paralisi del Palazzo di Vetro minaccia l'azione unilaterale. Mosca respinge la bozza di risoluzione dell'ONU e il caso è stato discusso anche a Bruxelles. Scontro diplomatico totale sulla Siria dopo il presunto attacco con armi chimiche nei pressi di Idlib. La Russia ha respinto una bozza di risoluzione ONU. Non vediamo un particolare bisogno di adottare una risoluzione, ha detto il vice rappresentante russo durante la riunione del Consiglio di sicurezza. Mosca ha condannato l'uso di armi chimiche, sottolineando però che la campagna anti-Damasco deve essere cestinata nella discarica della storia. La Russia si trova però isolata sul fronte diplomatico. Kim Won-soo, alto rappresentante ONU per il disarmo, ha definito le episodio come il peggior attacco del genere in 4 anni, durissimo l'affondo della rappresentante americana Nikki Haley. We cannot close our eyes to those pictures. La Haley ha chiesto all'ONU di agire. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle immagini dei bambini morti. L'attacco di ieri porta le impronte del regime di Assad, ha detto, prima di rivolgersi a Mosca. La Russia non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Damasco contrattacca. Il viceministro degli esteri Mikad accusa Gran Bretagna, Francia, Turchia e Arabia Saudita di essere responsabili del presunto attacco chimico. Secondo l'Osservatorio per i diritti umani in Siria sarebbero 20 i bambini morti nel raid insieme a 17 donne. E da Bruxelles, dove si è conclusa la conferenza internazionale per il sostegno al futuro della Siria, l'alto rappresentante europeo Mogherini ha condannato l'uso delle armi chimiche. I responsabili dovranno essere chiamati a risponderne. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, Trump, presidente americano, avverte le terribili azioni del regime di Assad non saranno più tollerate. Tra poco torneremo a parlare della situazione sempre più drammatica e contorta in Siria. Intanto, per quanto riguarda la politica interna americana, Donald Trump ha rimosso il controverso Steve Bannon dal consiglio, suo controverso stratega, consigliere personale Steve Bannon, dal Consiglio Nazionale per la Sicurezza, però lasciandogli appunto l'incarico di stratega. E poi la politica italiana, renziani battuti in Commissione Affari Costituzionali al Senato. È stato eletto come presidente l'esponente di Area Popolare Salvatore Torrisi contro il candidato del Partito Democratico Giorgio Pagliari. I renziani parlano di inedito patto della conservazione che unisce anche Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Movimento Democratici e Progressisti, e dicono che è a rischio la legge elettorale. Parliamo anche di fisco. Con la denuncia della Corte dei Conti, in Italia il cuneo fiscale è troppo alto. Un rapporto, quello 2017 sulla finanza pubblica, che punta il dito sul sistema fiscale italiano. La Corte dei Conti ne mette in luce allora limiti e dispersioni. Si chiede che la pressione sui contribuenti sia ridotta e si invita alla cautela nell'uso dei proventi della lotta all'evasione per finanziare maggiori spese o riduzioni certe di entrate. Capitolo a parte il cuneo fiscale. In Italia è di ben 10 punti superiore a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa, spiegano i magistrati contabili. Altro fronte poi quello della ripresa economica è meno fragile, dice il presidente della Corte dei Conti Martucci. Vi sono buoni motivi per sperare, a condizione che si perseveri in un percorso che sappia conciliare misure a sostegno della crescita in un quadro di equità sociale. I segnali sulla crescita sono incoraggianti, aggiunge il ministro dell'economia Padoan. L'anno appena trascorso si è concluso con un quadro positivo. La crescita ha ripreso vigore dalla seconda metà del 2016. Sul fronte manovra intanto continua il lavoro del governo. Restano i nodi sulle coperture, con il PD che insiste per un taglio delle tasse. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo all'inizio, avete sentito il commento appunto del neopresidente della NM su questo caso dal Pavese, la storia della 14enne tolta alla famiglia per maltrattamenti. I lividi e le escoriazioni sul corpo della ragazzina sono stati messi nero su bianco dai medici del pronto soccorso del San Matteo di Pavia, che l'hanno dimessa con 31 giorni di prognosi. E adesso i giudici del Tribunale dei Minori di Milano l'hanno tolta ai genitori trasferendola in una comunità. A pochi giorni dal caso della ragazza di Bologna, a cui i genitori originari del Bangladesh avrebbero rasato la testa per il suo rifiuto di indossare il velo fuori casa, un'altra adolescente, questa volta di un comune dell'Oltrepò, Pavese, ha raccontato che i genitori e il fratello maggiore non avrebbero tollerato che lei frequentasse ragazze italiane, che vestisse alla moda o che rincasasse tardi. Da 2 anni sarebbe stata picchiata sistematicamente e in un'occasione sarebbe stata frustata con il cavo d'alimentazione del PC. Qui la religione non c'entra, si è affrettato a precisare il legale della famiglia. I genitori si lamentavano del fatto che non andasse a scuola e che non studiasse. Abbigliamento o cose del genere non c'entrano. Ma adesso spetterà alle indagini stabilire il motivo di quelle percosse, unica certezza segnata sul corpo della giovane. È una storia purtroppo ordinaria in cui c'entra il fattore culturale e il conflitto tra una ragazzina nata in Italia e la sua famiglia tradizionalista, ha spiegato il procuratore del Tribunale per i Minori di Milano, Ciro Cascone. Il fattore religioso è solo un aspetto di quello culturale. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo caso sentiamo completo il commento del neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Eugenio Albamonte, intervistato appunto dalla nostra Raffaella Calandra. In realtà è un ordinario caso di maltrattamenti in famiglia di un genitore ai danni di un minore. Quello che cambia è la motivazione. In un altro tipo di famiglia ci può essere un trattamento analogo, perché l'adolescente va male a scuola oppure perché non rispetta le indicazioni sull'orario di rientro a casa. In questo caso c'è una componente che sta a monte della punizione, che è relativa all'omologazione dei figli ai valori culturali dei genitori. Quello che cambia è il contesto sociale in cui ciò avviene, questo è legato al multiculturalismo che stiamo vivendo. È inevitabile che prima o poi, anzi più prima che poi, i giudici, prima di altri settori delle istituzioni, si occupino dei problemi ulteriori che questo multiculturalismo pone. Non è qualcosa in più, diciamo così, che viene richiesto ai giudici, è la loro attività quotidiana, a fronte di qualsiasi categoria di valori religiosi, sociali, eccetera, eccetera, mantenere fermi i principi di diritto. In questo caso che i minori non si maltrattano. E poi un'altra terribile storia di violenza contro le donne. Lidia Vivoli ha lanciato in questi giorni il suo appello a più riprese. Dopo ripetute violenze, ha deciso di lasciare il compagno Giuseppe, separato con tre figli, che veniva da un matrimonio andato male. Lei si era fidanzata con lui. Giuseppe già l'aveva picchiata diverse volte, anche bucandole il timpano e rompendole le costole. Eppure lei aveva deciso di restare. Poi finalmente la scelta di lasciarlo. Lui reagisce, la pesta a sangue, la ferisce più volte con una forbice minacciando di ucciderla se avverte qualcuno. Lei invece prende il telefono, chiama il 118, Giuseppe viene arrestato, dopo 5 mesi gli vengono concessi i domiciliari, ricomincia a perseguitare Lidia che lo denuncia di nuovo. A maggio 2015 Giuseppe viene condannato a 4 anni e 6 mesi, adesso è in carcere ma tra giugno e luglio dovrebbe essere fuori dal carcere. Lidia teme che tra sconti di pena e buona condotta appunto possa uscire anche prima del previsto, ha lanciato un disperato appello perché lui aveva giurato di ucciderla. A quel punto chi la proteggerà e come? Sentiamo un passaggio del suo appello. Lui mi ha detto che io non dovevo parlare, non avrei mai dovuto mostrare le foto col mio volto tumefatto. Ciò che lui mi ha fatto, questo ha segnato la mia condanna a morte. Io invece non solo l'ho mostrata agli amici, ma l'ho mostrata a tutta Italia, perché è giusto che la gente sappia, è giusto che le cose cambino, che le leggi cambiano a favore delle donne vittime di femminicidio, dei figli delle donne morte, delle donne sopravvissute, perché la maggior parte delle donne non denuncia, il 90% delle donne non denuncia perché ha paura, perché la domanda è: dopo la denuncia cosa c'è? Niente, nessuna tutela, anzi noi rischiamo di incattivire il nostro aguzzino. E speriamo che il suo appello e quello di tutte le donne venga ascoltato, appunto, visto che il suo ex dovrebbe essere fuori dal carcere tra poco. Adesso l'omicidio di Alatri, sono tutti accusati di omicidio volontario per la morte di Emanuele Morganti, anche gli altri indagati finora solo per rissa, secondo quanto si apprende dal legale di uno di loro. Si tratta di Franco Castagnacci, padre di Mario, che con Paolo Palmisani, uno dei due giovani in carcere, e di 4 buttafuori del locale della lite iniziata da Alatri, sfociata poi nel pestaggio mortale del giovane. Trasporti, vari disagi. All'Italia oggi ha scioperato, il 60% dei voli cancellati. Da domani inizia la trattativa non stop con l'incognita della cassa a 0 ore. E poi a Milano l'avvertenza ATM, i trasporti, l'azienda del trasporto pubblico milanese e lo sciopero di oggi. Uno sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici nella seconda giornata del Salone del Mobile di Milano. La mobilitazione indetta da TM per questa mattina ha colto nel segno: chiuse tutte e 4 le linee della metropolitana, ridotte le corse nei mezzi di superficie, con le conseguenze immaginabili per lavoratori, turisti e operatori del settore. La protesta dei lavoratori ATM è stata proclamata contro la decisione del Comune di Milano di cambiare i bandi di gara per i vari servizi legati alla mobilità pubblica, come spiega ad Effetto Giorno Luca Stanzione, segretario generale FILCGL Milano. Oggi noi abbiamo Milano cui il trasporto è fatto da ATM. Domani possono esserci piccole aziende della città metropolitana di Milano a svolgere il servizio pubblico. C'è una delibera che fa una prima divisione che prima non c'era. In gioco, spiegano i sindacati, ci sono i posti di lavoro, eventualità questa esclusa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Non c'è il benché minimo rischio, i modi per salvaguardare l'occupazione ci sono. Un incontro è in corso tra i sindacati e il primo cittadino di Milano, obiettivo trovare un accordo e scongiurare altri scioperi in futuro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di cucina, perché l'osteria francescana dello chef modenese Massimo Bottura non ha più il primo posto tra i migliori 50 ristoranti del mondo. A scavalcarlo in testa alla prestigiosa classifica, considerata l'Oscar dell'alta cucina, è stato l'Eleven Madison Park Restaurant di Daniel Hamma a New York. E insomma, Bottura si è detto molto deluso, ma insomma non si può sempre vincere. Poi per chiudere, non so chi sta vincendo a proposito di vittorie tra Napoli e Juventus, Giovanni Capuano, come va la partita? Eccomi Roberta. Non sta vincendo nessuno perché siamo alla mezz'ora, il risultato è 0-0, ma è una partita bellissima, accesissima. Il direttore di gara Banti è appena riuscito a fatica a sedare un principio di rissa dopo una caduta di Cuadrado al limite dell'area di rigore. Tra l'altro lo stesso Banti aveva lasciato proseguire e quindi non aveva dato calcio di punizione alla Juventus, ma i giocatori del Napoli si sono scatenati accusando Cuadrado di aver simulato e si è accesa una rissa. Nervi parecchio tesi, una partita molto intensa che ha già regalato tanti episodi. C'è stata una buona occasione per la Juventus dopo 3 minuti con una conclusione ravvicinata di Benatiar respinta da Koulibaly, e c'è stata soprattutto una grandissima occasione del Napoli al 12° con un assist di Insigne che ha messo Callejon solo a 2 passi da Neto, che ha compiuto un autentico miracolo, e poi Milik ha messo fuori. Milik che gioca al posto di Mertens. Le due squadre sono profondamente cambiate rispetto alla sfida di campionato di domenica sera. In questo momento ancora il Napoli che rischia su un errore in disimpegno con Sturaro servito al limite dell'area di rigore, imprecisa però la sua conclusione. Ti segnalo che c'è stata anche un'invasione di campo dopo 4 minuti, un invasore solitario che è riuscito ad entrare sul terreno di gioco del San Paolo e a mettere al collo di Higuain una sciarpa del Napoli. Higuain che, esattamente come è capitato domenica sera, è stato accolto da fischi e insulti dai 55.000 che questa sera affollano il San Paolo. Per lui un'altra serata difficile. Ricordo che si parte dal 3-1 dell'andata, quindi per superare il turno il Napoli deve vincere con 2 gol di scarto, cercando di non incassarne, oppure con 3 se dovesse incassare gol. È una partita bellissima, in questo momento c'è il gol di Gonzalo Higuain. 32 minuti, Gonzalo Higuain ha portato in vantaggio la Juventus al San Paolo. San Paolo assolutamente zittito, un gol bellissimo, una conclusione dei 25 metri, un rasoterra, palla che si è infilata all'angolino alla destra di Reina, inutilmente proteso in tuffo. Higuain che adesso con il dito indica la tribuna dove è seduto il presidente del Napoli, De Laurentiis, quello che è per lui il grande nemico. Anche prima della partita c'è stata questa mossa da parte di Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain che dopo 32 minuti di insulti si è preso la sua rivincita. 1-0 per la Juventus, gol del Pipita, il grande ex, quello più atteso in questa serata. A te Roberta. Grazie Gianni Capuano, come ieri sera in presa diretta proprio viene il gol mentre ci colleghiamo. Comunque adesso ci lasciamo brevemente, c'è questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando, e vi ricordo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. A proposito di velo e non velo, Walter scrive: Theresa May incontra gli arabi ma non si fa soggettare dal velo, grande donna inglese, le nostre politicanti imparino da lei, dice. Poi Lorenzo da Londra, lo ringrazio di scrivere da Londra perché sapete che Effetto Notte è ascoltato in tutto il mondo a qualsiasi latitudine per rimanere sempre aggiornati sui fatti principali dell'Italia ma anche dal mondo, e dice: esatto, dopo la denuncia delle donne che denunciano violenze come nel caso appunto che avete sentito prima, niente, è uno schifo, dice Lorenzo. E poi invece Luna mi scrive: Roberta, ieri mi hai dato della scettica, oggi anche tu sei un po' scettica perché ieri eri prevenuta sulla strage in Siria. Ma mi pare, Luna, che tu ieri mettessi in discussione che ci fossero stati morti. I morti ci sono stati, bisogna capire appunto chi ha provocato questa strage. In realtà si parla di responsabilità, non di morti o non morti, quelli purtroppo ci sono. Ma ci risentiamo tra pochissimo. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, proseguiamo. Allora adesso cominciamo a approfondire dopo il riassunto della giornata e vari argomenti. Ritorniamo tra pochissimo sulla strage di ieri in Siria, col bilancio dei morti che sale, anche con le incertezze, gli scontri nella comunità internazionale, il muro contro muro, di chi sono le responsabilità. I vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Molti ascoltatori vogliono dire la loro, fare le loro analisi. Simone dice: Assad è un burattino, la guerra è tra sunniti appoggiati dai sauditi e dall'America, favorevoli a far passare dalla Siria il gas iracheno, e sciiti appoggiati dalla Russia e Siria, favorevoli al gasdotto iraniano. È una guerra per il futuro dell'energia nel Mediterraneo, dice Simone. Gilles scrive: come sempre accade, ci si divide tra i vari tifi, pro e contro, ma come ha detto Domenico Quirico, che è un giornalista della Stampa, lì non ci sono buoni o cattivi, dovendo proprio scegliere fra l'assassino Assad e gli assassini dell'ISIS, forse è meglio Assad, scrive tra parentesi Tito e Gheddafi Docet. Alessandro commenta: perché alimentare polemiche cercando il colpevole della strage? Ormai parliamo tutti per sentito dire, non c'è nulla di certo in quella regione del pianeta. In effetti Qualcuno dice sono notizie false, forse quelle relative alle responsabilità, bisogna ancora accertare, chissà se sarà mai possibile farlo, però come vi dicevo i morti effettivamente ci sono. Ma prima di cominciare a approfondire l'argomento vi ricordo, se avete acceso adesso non puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali. Siria, la strage con i gas, i morti al momento sono 74, tra i quali 25 minori. Mosca difende Damasco e rifiuta la risoluzione ONU. Trump avverte, le terribili azioni del regime Assad non saranno più tollerate. E per la politica interna americana, lo stratega di Trump Bannon rimosso dal Consiglio per la sicurezza nazionale. Per la politica italiana, caos sulla legge elettorale, ultimatum di Renzi al Senato e scoppia il caso della nomina di Torrisi, di Area Popolare, alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, che era destinata invece al PD. Corte dei Conti, in Italia il cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto paga l'azienda, il datore di lavoro, e quello che percepisce invece il lavoratore in busta paga, è di 10 punti sopra la media dell'Unione Europea. Trasporti, cancellato il 60% dei voli all'Italia e per l'avvertenza TM Milano a piedi stamattina nel pieno del Salone del Mobile. La ragazzina marocchina frustata dai familiari, il caso nell'Oltrepò Pavese, la minore allontanata dai genitori per maltrattamenti, non vogliono che sia occidentalizzata. L'omicidio di Alà, accusa di omicidio volontario per tutti gli indagati. E poi per il calcio prosegue la partita Napoli-Juventus con la Juventus in vantaggio di un gol. Quindi ritorniamo sulla strage in Siria, provocata da un raid aereo ieri, probabilmente condotto con l'uso di gas letali. Il bilancio dei morti è salito a 74, tra questi 25 minori. Morti per soffocamento documentati con nome e cognome, dice un medico che è stato intervistato dall'ANSA, uno dei primi medici che è intervenuto a soccorrere i feriti, e dice che il bilancio purtroppo è destinato a aumentare perché ci sono moltissimi feriti, decine di feriti in condizioni gravissime. Medici Senza Frontiere dicono che sono stati usati almeno 2 agenti chimici in questo attacco a Idlib. Abbiamo fornito, dicono ai medici all'ospedale, antidoti e abiti protettivi, e l'ONU oggi ha detto che è stato il peggior attacco in Siria dal 2013. Anche Erdogan, presidente turco, dice le armi chimiche sui bimbi e Assad è un assassino, anche se certamente neanche lui è un santo. E gli Stati Uniti ipotizzano addirittura un intervento unilaterale. Ne parliamo con Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, adesso da ieri si punta il dito contro Assad, qualcuno ha cominciato a mettere in dubbio che sia stato effettivamente lui. Trump però dice le terribili azioni del regime di Assad non saranno più tollerate, questo attacco ha cambiato il mio atteggiamento nei suoi confronti. Ecco, partiamo da qui. Allora, visto che Trump ha detto che non saranno più tollerate, farà quello che non ha fatto Obama, quando nel 2013 disse che Assad aveva superato la linea rossa, stava per attaccarlo e poi non l'ha più fatto. Allora ci aspettiamo che Trump adesso bombardi Assad e Damasco e usi quelle migliaia di uomini che ha già schierato sul terreno tra l'Iraq e la Siria per fare la guerra a Damasco. Ci credete voi? Io non ci credo. Io non ci credo perché lo stesso Trump e la stessa Casa Bianca ieri, dopo aver condannato Assad, hanno detto che però Assad può restare in sella, sì, può restare al potere. Vero, sì. Ecco, queste sono le classiche contraddizioni dell'Occidente, ma perché siamo finiti in queste contraddizioni, signori? Al di là di chi ha fatto questo attacco chimico, se è veramente un attacco chimico, se è esploso un deposito di armi chimiche che era già sul posto, tutte cose da accertare, però ci sono alcune certezze. La guerra in Siria è stata persa dagli europei, dagli americani, dai loro alleati turchi e dalle potenze arabe sunnite. Su questo non c'è dubbio alcuno, e adesso in qualche modo si deve cercare di bilanciare che cosa? Il fatto che il regime di Damasco stia ritrovando un certo spazio di manovra internazionale dopo che la Russia l'ha aiutata a stare in sella. Però questa è una guerra persa ed è una guerra dove i signori, gli occidentali, i loro alleati turchi e le potenze sunnite hanno sostenuto le milizie jihadiste per tentare di buttare giù Bashar Assad per 6 anni, e per 6 anni hanno detto che se ne doveva andare. Bene, adesso di fronte a quello che loro ritengono un attacco chimico dovrebbero essere conseguenti e quindi andare a bombardare Damasco. Lo ripeto, io non ci credo. Tu non ci credi, quindi quale potrebbe essere, non so, dire l'epilogo? Ma non c'è un epilogo in questa vicenda. sono 6 anni di guerra con 500.000 morti e si è superata anche la barriera dei 5 milioni di rifugiati, di profughi all'estero, oltre agli altri 7-8 interni. La verità è che anche questi morti serviranno in qualche modo da mettere sul tavolo in una futura sistemazione geopolitica della Siria, cioè come si spartirà la Siria e quella zona a nord di Idlib, che confina ed è vicino a 50 chilometri dal confine turco, in qualche modo è una zona nella sfera dell'influenza della Turchia. Quindi bisognerà dare qualche cosa ai turchi, bisognerà dare qualche cosa ai sunniti, bisognerà spartire questo territorio. Una bella spartizione. Senti, un'ultima domanda, Alberto Negri, ma come hanno fatto fuori Saddam, pure ingiustamente, al di là che non fosse un santo neanche lui, ma è un paese devastato tuttora, insomma, di milioni di morti civili, oppure quando hanno fatto fuori Gheddafi, come mai Assad invece è sempre lì... Perché gli occidentali continuano a non conoscere il Medio Oriente, perché Saddam Hussein era già un regime isolato di per sé ed è stato piuttosto facile buttarlo giù. Poi naturalmente lì si è aperto il vaso di Pandora e il paese non è stato più pacificato, sono 12-13 anni che lì si muore, no? Ricordo così incidentalmente che qualche settimana fa gli americani hanno fatto 200 morti per errore a Mosul, e va bene. Ma detto questo, Gheddafi era lo stesso un leader tutto sommato isolato nella comunità internazionale. Il regime di Damasco no, il regime di Damasco è sostenuto storicamente da oltre 35 anni dall'Iran. Dall'Iran. Era sostenuto dalla Russia economicamente, che poi l'ha sostenuto anche militarmente. E per di più in un'area, in una faglia di confine tra il Medio Oriente, la Mesopotamia e il Mediterraneo, assolutamente strategica, e dove i russi avevano già una base militare, adesso ne hanno 2 o 3. Quindi è questo il motivo per cui quella Siria non è caduta. Era una sorta di Jugoslavia araba, ma al contrario della Jugoslavia dei Balcani, che si è disgregata quando la Russia fece bombardare Belgrado senza reagire, questa volta la Russia di Putin ha detto no e questa volta interveniamo. Chiarissimo, come sempre. Grazie Alberto Negri. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alberto. È tirata molto in ballo naturalmente l'America e gli Stati Uniti, no? In questo scenario così terribile, drammatico e complesso della Siria. Ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, e ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Ciao Marco. Buonasera, ciao. Allora, ci sono molte notizie che riguardano l'America e Trump. Allora, prima di collegarci con quello che dicevamo con Alberto Negri e con la vicenda della Siria, oggi la notizia in primo piano era che il più stretto consigliere di Donald Trump per la strategia nazionale, Stephen Bannon, il controverso Bannon suprematista, quello convinto della supremazia della razza bianca, eccetera, eccetera, di destra, eccetera, è stato vittima di un rimpasto nello staff di Trump e è stato levato dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, dal ruolo che aveva. Rimane lo stratega, il consigliere personale di Trump, però è stato tolto da quel ruolo per cui era stato tanto criticato? Sì, sì, è vero. Questo è stato un segnale, se si vuole, di normalizzazione del governo Trump, dell'amministrazione Trump. Una normalizzazione, non è ancora chiaro quanto voluta e quanto, diciamo così, imposta e accettata così dall'establishment più tradizionale della politica estera americana, ma sicuramente una svolta. Bannon è chiaramente molto molto vicino a Trump, uno dei due grandi consiglieri di Trump più ascoltati, l'altro è il genero Jared Kushner, ed era stato messo, nonostante le polemiche imposte, nonostante le resistenze, nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, che è un organismo tipicamente disegnato e diciamo così occupato da esponenti della comunità di intelligence, delle forze armate, da esperti di sicurezza nazionale. Ecco, Bannon non era nulla di questo, certo ha studiato all'università sicurezza nazionale, ma ed ha fatto, diciamo, ha fatto servizio militare. E quindi Trump Marina, ha cercato carriera... di raddrizzare il tiro, esatto, levandolo, ma lasciandolo accanto a sé. Senti, però poi ci sono gli altri dossier importanti, che sono la Siria, di cui stavamo parlando, con Trump che minaccia questo intervento unilaterale, ma come spiegava Alberto Negri, proprio ieri l'avevo vista questa dichiarazione, Trump diceva sì, è una cosa orribile, eccetera, però Assad resti al suo posto, no? La solita ambiguità, esatto, di Trump. La credibilità in questo momento dell'amministrazione, esattamente, la credibilità dell'amministrazione americana, l'amministrazione Trump in questo momento è sicuramente in gioco, e non è chiaro cosa voglia fare, voglia dire, perché se da un lato appunto c'è questa area di normalizzazione nella politica estera dal punto di vista del personale, le politiche invece continuano a essere molto molto incerte. La Siria ne è un caso eclatante. Pochi giorni fa aveva esplicitamente indicato l'amministrazione che la rimozione di Assad non era più una priorità, non era più una cosa importante per l'amministrazione. Oggi una parziale marcia indietro, appunto sull'onda emotiva e politica dell'attacco chimico, le armi chimiche in Siria da parte delle forze del regime aiutate dalla Russia con ogni probabilità, e quindi ecco quella presa di posizione, ma non è chiaro quali siano le conseguenze, proprio per i continui giravolte dell'amministrazione, sì, che ha cercato come unica così razza ultima di criticare la sua attuale, diciamo così, incapacità di rispondere alle sfide, così accusando i difetti della passata amministrazione di Barack Obama, sicuramente molti, ma che non hanno nulla a che fare con le attuali sfide dell'amministrazione. Diciamo, Trump ha fatto sapere, ha detto esplicitamente, era tutta colpa della debolezza mostrata da Barack Obama, ma a suo tempo Trump era stato uno di quelli che aveva dichiarato pubblicamente che gli Stati Uniti dovevano tenersi totalmente di fuori dalla Siria e totalmente e non interferire con il regime di Assad. Chiaro. Quindi, Marco, diciamo, senti, per chiudere, abbiamo veramente meno di un minuto, domani c'è l'incontro di Trump col presidente cinese, tra le varie cose parleranno sicuramente della Corea del Nord, che ogni tanto lancia i suoi missili, l'ultimo proprio nelle ultime ore, no? Queste provocazioni, ha chiesto più volte alla Cina di occuparsi della Corea del Nord, la Cina ha ritirato la palla, ha rimbalzato la palla dicendo siete voi che dovete capire che cosa fare. No, comunque domani seguiremo e capiremo che cosa si diranno e che decisioni prenderanno. Un dossier sicuramente, il vertice più bilaterale più importante della giovane presidenza Trump, e Trump dovrà dimostrare a questo punto davvero se è in grado di offrire una leadership presidenziale o meno. I dossier, come ricordavi, sono scottanti. Forse qualche spiraglio sul fronte economico e commerciale, ma per potenziali così accordi quantomeno di facciata, ma sul fronte invece della crisi forse più difficile, quella come ricordavi della Corea del Nord, i giochi e la partita resta del tutto aperta e bisognerà vedere come Trump e il presidente cinese Xi Jinping riusciranno a ricucire le differenze, se riusciranno a ricucire. Grazie Marco Valsani da New York, ciao Marco. Grazie a voi. Ci lasciamo adesso per questa pausa di pubblicità. I vostri messaggi potete continuare a mandarli sulla pagina di Effetto Notte Facebook, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp e SMS che è 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora sul filo dei nostri temi di questa sera. Abbiamo parlato molto di Siria, di questa situazione sempre più contorta, complessa, dalla quale è difficilissimo ormai uscire, da questo groviglio di violenze, di muro contro muro. Ci diceva Alberto Negri che ormai c'è il fallimento della comunità internazionale, dell'Europa, ma anche degli Stati Uniti lì in Siria. E poi ci siamo concentrati invece sui principali dossier che sta affrontando in queste ore Trump, dalla Siria, dove ha detto interverremo unilateralmente, anche se ci ricordava l'inviato speciale che in realtà Trump proprio ieri ha detto che Assad può starsene tranquillamente al suo posto, e già prima aveva detto che non sarebbe mai intervenuto in Siria, quindi poca credibilità da questo punto di vista. Domani incontrerà Trump il presidente cinese, un bilaterale importantissimo, parleranno anche della Corea del Nord che lancia provocazioni e missili ogni tot. Adesso invece alleggeriamoci un po', vi ricordo tra poco come sempre i fatti principali se non avete acceso puntualmente alle 21, ma ci alleggeriremo con tutta questa effervescenza che circola per Milano. I titoli. Siria, la strage con i gas. I morti al momento sono saliti a 86, tra i quali 30 minori. Mosca difende Damasco e rifiuta la risoluzione ONU. Trump avverte le terribili azioni del regime di Assad non saranno più tollerate e minaccia un intervento unilaterale. Per la politica interna americana intanto Trump silura lo stratega Bannon, rimosso dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ma rimane comunque il suo consigliere personale. Politica italiana, caos sulla legge elettorale, ultimatum di Renzi al Senato, scoppia il caso della nomina di Torrisi di Area Popolare alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali che spettava al Partito Democratico. Corte dei Conti, in Italia il cuneo fiscale è 10 punti sopra la media europea, parla anche la Corte dei Conti di una leggera ripresa ma faticosa in Italia. Poi la vicenda della ragazzina marocchina frustata dai familiari, il caso nell'Oltrepò Pavese, la minore allontanata dai genitori per maltrattamenti, non vogliono che sia occidentalizzata. L'omicidio dell'Atri, accusa di omicidio volontario per tutti gli indagati e per la morte di Emanuele Morganti. E poi per il calcio prosegue la partita Napoli-Juventus, con la Juventus che conduce 1-0. Concentriamoci adesso sul Salone del Mobile di Milano, che è aperto ieri 4 aprile, durerà sino al 9 aprile, rappresenta la manifestazione internazionale, punto di riferimento per il settore dell'arredo, del design, e la vetrina di eccellenza della qualità, dell'innovazione nel settore dell'arredo, appunto dei complementi che riguardano la casa, di design, nonché un appuntamento, come dicevo, internazionale, capace di attrarre oltre 300.000 visitatori da più di 165 paesi, come ci conferma la nostra Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Ciao Giulia. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Tu hai già girato, no Giulia, in questa atmosfera così vivace? Anche perché proprio è più, chiamiamola proprio la settimana del mobile, perché c'è il Salone, come hai detto tu, che è arrivato alla 56esima edizione ed è l'unica fiera durante l'anno che riesce a coprire tutto quel bellissimo quartiere fieristico che abbiamo a Rho. E poi c'è il fuori Salone, che è tutto quello che succede sostanzialmente in città, e per città, perché i milanesi sono abituati a pensare al centro come punto di riferimento per gli eventi mondani, quando dico in giro per la città dico veramente dappertutto, disseminati, cioè, dappertutto, sì. C'è veramente un formicaio poi di persone, di eventi, c'è una grande effervescenza, no, in questi giorni. Sì, a Rho si può andare, tra l'altro fino a venerdì è per gli operatori, sabato e domenica possono andare tutti per sognare un po', magari per girare e sognare la casa dei propri sogni. Non tutto è, anzi molte cose sono accessibili, però lì proprio c'è talmente tanta scelta che è proprio divertente sognare. Poi quest'anno è l'anno di Euroluce, che si alterna al Salone della Cucina, e con la luce si stanno facendo delle cose bellissime, perché c'è questa innovazione legata alle nuove forme di lampadine. Quindi a Rho si può andare per sognare, in metropolitana, tranne che forse stamattina. Che oggi c'era lo sciopero dell'ATM, dei mezzi di trasporto pubblici, no? A Milano, un po' di disagi, diciamo, per questo secondo giorno. Però devo dirti, è talmente gioiosa l'atmosfera in questi giorni che io non ho visto la solita rabbia che c'è anche giusta quando uno sciopero blocca la città, e si trovavano modi alternativi, il bike sharing, l'unico tram che magari passava, tutti stipati come sardine. Ho visto proprio un entusiasmo che non si è spento nemmeno davanti a questi disagi. Quindi a Rho per sognare, e poi in città, soprattutto nel pomeriggio, a partire dall'ora dell'aperitivo, per vedere tutte queste installazioni, sia nei negozi specializzati in mobili, sia in quelli della moda, e poi perché tutti si ingegnano di offrire una tartina, se avete fame, insomma. Senti, se ne può approfittare. Giulia, prima di lasciarci, poi numeri da capogiro dal punto di vista economico, quindi hai detto divertimento, sogni, piacere, così, incontri sociali, eccetera, però guarda, ci sono anche dei numeri impressionanti. Guarda, per la città è una molto più delle 4 settimane della moda. Se tu parli con i tassisti, per loro è questo il momento in cui sono felici. Ecco, persino i tassisti veramente sorridono, non ci trovano svantaggi. E poi tutto l'indotto degli alberghi, forse so che ne parlerai magari, sì, comunque, quindi l'indotto degli alberghi, perché 300.000 persone che arrivano in città da qualche parte devono dormire, d'accordo, ci sono tutte le forme alternative di ospitalità che sappiamo, però gli alberghi sono tutti pieni. E poi grande felicità anche per tutti quelli che, per i bar, perché ripeto, il paragone con la settimana della moda si può fare, però sai, il popolo della moda in generale mangia poco, magari beve qualcosa, è sempre di fretta, qui invece c'è un piacere di divertirsi, anche perché l'età media di chi viene per il fuori salone è bassissima e poi si sentono lingue di tutti i tipi, sembra di essere in una Babele ringiovanita, ecco, è proprio una gioia perché la città vive, la città respira. Una Milano bellissima che ci hai descritto. Grazie Giulia Crivelli. Grazie a te. Ciao Giulia. Ciao. E a proposito di alberghi, vorrei coinvolgere Maurizio Naro, che è presidente di Federalberghi Milano. Buonasera Naro. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Sarete felici anche voi a proposito di tutta questa gioia, immagino? Beh, come diceva la sua collega, è la settimana che fa felice tutta la città di Milano, non solo gli albergatori, ma tassisti, ristoratori, bar, negozi. È sicuramente la settimana che rende Milano una città veramente viva, attraente, si vorrebbe così tutti i giorni. Sembra difficile per molti in questo periodo trovare una stanza, no? Negli alberghi milanesi, presi d'assalto. Come succede in tutto il mondo quando ci sono questi eventi che attraggono numeri importanti, abbiamo parlato appunto di 300.000 persone, naturalmente tutta la città è al limite, diciamo, delle sue capacità. Sicuramente è una situazione che funziona dal martedì, praticamente dal lunedì sera fino al giovedì, venerdì comincia già a liberarsi qualche camera, il sabato e la domenica diciamo il posto si trova. Naro, prima di lasciarci, mi dica, è vero che in certi casi i prezzi delle stanze anche si quadruplicano? Beh, diciamo che i moltiplicatori che diciamo, il Salone del Mobile porta rispetto alla media del prezzo annuale sono simili a Milano come in tutta Europa, beniamente raddoppiano appunto rispetto alla media di circa 125 euro all'anno, ma così avviene anche a Barcellona quando c'è il Mobile Congress, a Monaco quando c'è il Bauma, anzi Monaco ha una media sulla settimana di durata della sua fiera come prezzo medio che è circa 50 euro più alto di quello della settimana del mobile. Grazie Maurizio Naro, grazie, quindi prego. Buoni affari insomma, grazie, buona buon Salone del Mobile, grazie, buona serata. Buonasera. Quindi se volete anche voi essere partecipi di questa gioia, di questo fermento, di questa effervescenza milanese, insomma, avete sentito, potete affluire fino al 9 aprile nel fuori salone e poi negli ultimi due giorni anche proprio lì direttamente in fiera. 349-238-6666 sempre per i vostri messaggi, WhatsApp o SMS e poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo a momenti. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, tra poco le notizie ve le ricorderò molto brevemente. Intanto c'è appunto l'aggiornamento del bilancio della strage in Siria. Secondo un'organizzazione non governativa sarebbero 86 morti per l'attacco chimico, tra cui 30 bambini. È l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani che dà questi dati. E poi ho visto anche un'altra notizia che... Adesso vediamo se la ritrovo. Comunque, insomma, man mano che scorreranno le agenzie. Saluto intanto tra gli ascoltatori anche Suor Angela, che dice che ascolta dall'ospedale di Niguarda. Sicuramente non è una situazione piacevole, ma la ringrazio. La saluto a mia volta e l'abbraccio. E adesso invece tra poco parleremo della partita, ci aggiorneremo sulla partita e magari anche sul caso della Juventus, che molti non hanno compreso fino in fondo. Vi ricordo velocemente che le notizie più importanti di cui abbiamo parlato sono la Siria, la strage con i gas, avevo parlato dell'aggiornamento appunto delle vittime, la Russia che difende Damasco e rigetta la risoluzione ONU, Trump che avverte le terribili azioni del regime di Assad avranno conseguenze se non si decide nessun altro, agiremo unilateralmente anche se sembra una minaccia poco credibile, e poi per la politica interna americana Trump che leva il suo consigliere, controverso stratega Bannon, dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ma continua a tenerlo accanto come consigliere personale. Poi per la politica italiana c'è questo caos scoppiato sulla legge elettorale e sul fatto che è stato nominato Torrisi di Area Popolare alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali, che si deve occupare della legge elettorale, che doveva essere invece di pertinenza del PD. Corte dei Conti, in Italia il cuneo fiscale di 10 punti sopra la media dell'Unione Europea. Per i trasporti, lo sciopero di Alitalia col 60% dei voli cancellati e questa trattativa che andrà avanti a oltranza. E poi per l'avvertenza ATM a Milano, trasporto pubblico a piedi questa mattina nel pieno del Salone del Mobile di cui abbiamo appena parlato. E poi la vicenda della ragazzina marocchina frustata dai familiari nell'Oltrepò Pavese, la minore allontanata dai genitori per maltrattamenti, non vogliono che sia occidentalizzata. L'omicidio di Alatri, accuse di omicidio volontario per tutti gli indagati. E per la cucina, a New York il miglior ristorante nel 2017 è stato spodestato Bottura, perché l'Oscar tocca all'Eleven Madison Park Restaurant di Manhattan. Per il calcio invece ci aggiorna Giovanni Capuano. Napoli-Juventus come procede? Ti aggiorno su una partita che vede ancora la Juventus avanti per 1-0. Il gol l'abbiamo raccontato prima in diretta, un gol che ha segnato Gonzalo Higuaín, il grande ex, anche questa sera fischiato dai 50.000 del San Paolo, fischi, insulti. E però al 32esimo Higuaín ha recuperato una palla ai 25 metri, si è girato verso la porta di Reina, ha scaricato un rasoterra di destro, palla nell'angolino, il portiere spagnolo è stato forse leggermente coperto da Quiriquez, il pallone è passato in mezzo alle gambe del difensore del Napoli, Reina si è buttato in ritardo, palla in rete, Juventus in vantaggio, che a questo punto è davvero a un passo dalla finale di Coppa Italia, perché l'andata ha vinto 3-1, dunque il Napoli deve fare 3 gol senza più subirne per andare ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre per la qualificazione servono 4 gol ai giocatori di Sarri, che in questa partita in realtà stanno creando poche occasioni, ne hanno avuto una grandissima all'inizio con Callejon, miracolo di Neto, però questa è una partita profondamente diversa da quella di domenica sera per chi l'ha vista, questa è una partita in cui la Juventus sta giocando e non si sta soltanto difendendo. Quinto minuto del secondo tempo, dunque 40 minuti alla fine della partita e il tempo comincia a mancare al Napoli, che deve segnare almeno 3 gol. Giovanni, abbiamo ancora 2 minuti, spiegheresti questa vicenda del caso biglietti Juventus, questa inchiesta sulle presunte infiltrazioni della malavita organizzata nel mondo Juventus? Spiegarla in 2 minuti non è semplice, per sintetizzare stiamo parlando di un'inchiesta della magistratura di Torino sfociata in un processo in cui la Juventus però non è indagata, perché non c'è nessun dirigente, dipendente, tesserato, nemmeno il presidente Agnelli che è indagato, il processo è iniziato settimana scorsa, un'inchiesta dentro la quale è comparso anche un giro di biglietti della curva della Juventus dati agli ultra e in parte finiti in mano a personaggi vicini alle cosche dell'Andrangheta. Quindi regalati a questi personaggi? No, venduti però, perché poi questi capi ultra potessero fare bagarinaggio con un sovrappezzo, guadagnare dei soldi. Il problema è che ovviamente questo dal punto di vista della giustizia sportiva non va bene, quindi la Juventus è stata deferita e sicuramente su questa cosa verrà multata, perché esistono regole precise sulla gestione dei rapporti soprattutto con le tifoserie ultra ed è vietato finanziarli in qualsiasi modo. Ma la cosa che ha creato grandissima polemica è stata, evidentemente ha fatto il giro del mondo, l'accostamento tra Agnelli, la Juventus e gli ultra. Oggi c'è stato un passaggio importante, perché il procuratore federale Pecoraro, ex prefetto di Roma, è stato risentito dalla commissione antimafia un mese dopo la sua prima audizione, che aveva davvero scatenato un vespaio, perché sostanzialmente, e citando un'intercettazione, Pecoraro aveva detto che Agnelli era consapevole di avere a che fare, tra i tanti capi tifosi, anche con questo Dominello, figlio di un boss dell'Andrangheta. Intercettazione che i legali della Juventus hanno sempre contestato come inesistente. Oggi Pecoraro si è presentato e ha sostanzialmente ammesso di aver letto male 5.000 pagine di carte del processo, quell'intercettazione non c'era, ha detto che ha riportato alcune sensazioni della procura di Torino, che però poi in serata ha smentito per voce del procuratore Spataro. Insomma, un caso non bellissimo e che sicuramente non si è chiuso oggi. Grazie Giovanni Capuano, grazie per questa spiegazione, noi ci risentiamo brevemente alle 22.